su Rigonia. Can't be near my ears tonight, baby. Hey, I'm Rigonia. Buongiorno a tutti, Rigonia. 18 maggio 2024. Tanti auguri Vincenzo, tanti auguri Alessandra Rigano, nostra cara amica. Broadcaster, ex broadcaster, chissà, forse un giorno di nuovo broadcaster. Sono le 11.07 e io confesso che quando mi sono segnato sul palinsesto ero convinto fossero le 9. Tanti auguri anche a Mariangela, adesso glieli scrivo. E per cui ero molto molto molto orientato a fare un po' di ordine in casa, sistemare due rubine di cui ce n'era un gran bisogno, e in realtà mi sono un po' affrettato a mettere su una lavatrice ed eccomi qua. È da un po' di tempo ormai, circa 10 giorni, quindi non così tanto tempo, però un po' di tempo che ho deciso di cambiare marcia, cioè questo format, questa dimensione deve fare un salto, cioè ho deciso che non c'è più ragione di girarci attorno, e ho deciso che in qualche modo i temi che mi passano per la testa in questi momenti della vita devono finire qui. Questo è il contenitore delle mie riflessioni più profonde e quanto più esplicite possibile, sebbene in un linguaggio sempre un po' figurato, perché le idee non è un periodo di idee molto chiare. You will not change in life until you change your energy. For years I've been trying to build followings on social media, and every single time I've been unsuccessful. And I don't think it's any coincidence that the point in my life at which I chose to become sober, I stopped sleeping around, and I started focusing on my goals and putting forth my best work was the moment that everything came together, including this anti-profit page. And honestly, I can't really explain it except by saying that the energy that I brought to these endeavors was completely different than the energy that I brought before. Even right now, even today, I'm choosing discipline over the easy route. For example, today, I honestly didn't want to record this week's videos. I almost canceled with my videographer, but I chose to stick with it because it's not about whether or not I feel like doing this. I've made a promise to myself to show up once a week and speak right into this camera. It is that energy which has helped me build all of this. And I can promise you, if you start to apply that same kind of energy into the projects that you care about, what you'll be able to accomplish will completely exceed your wildest imagination. Rigonia. Ora non starò a fare, come dire, il riassunto delle puntate precedenti, perché non è il caso, non è una roba. Non voglio continuare ad ammorbarvi con determinate con determinati aneddoti. Dirò brevemente quello che ho detto precedentemente, cioè circa un anno fa c'è stato un punto di rottura quando tutto è iniziato a cambiare con violenza sotto i miei occhi. Io non ero preparato alla trasformazione, anche se in realtà avevo dei concetti in testa che in quel momento purtroppo non ho utilizzato a mio vantaggio. E poi circa un mesetto e mezzo fa, un mese fa, ho percepito lo strappo, nel senso che c'è stata una trasformazione. Sapevo che stava accadendo. E di punto in bianco, o almeno finalmente, diciamo, ho cominciato a sentirmi dentro una pelle nuova. E purtroppo mi sono bruciato l'attacco del pezzo, perché volevo fare un attacco un pochettino più radiofonico, un pochettino più gaggio. Però mi ripeterò, ho aspettato tanto tempo per affrontare questo argomento. Adesso ci provo con quello che ho imparato, con quello che ho raccolto in giro. E il tema di questo episodio vorrebbe essere la trasformazione. I can't make you my breath, my feet on the ground, my center column, my heart rate. Where do I feel my energy in my body? Is it in my fingers, face, hands, neck, chest, which is a signature of dysregulation for me? Can I start bringing that down lower to the ground along with my breath? And lastly, can I access conscious awareness to resources and tools that I have developed? Torniamo in onda 18 maggio 2024. Un saluto da Ansco che ci ascolta dalla chattina di Antidoto. Un saluto dal Visa a cui diamo 100 punti per aver beccato l'audio, che è il risveglio di Neo nel primissimo Matrix. E un saluto anche a te, amico ascoltatore, che forse, chi lo sa, andrai a pescare il podcast dal sito di Radio Antidoto e ascolterai la mia storia. Un pensiero che ho avuto mentre ascoltavo i brani e l'audio riguarda i segnali. Ci sono dei segnali che, come dire, in qualche modo chiamano la trasformazione, ti stanno dicendo che qualcosa sta cambiando. Io devo dire che due segnali molto molto forti li ho visti nei miei ritmi fisiologici, ovvero ho ricominciato a fumare, ma a fumare in una maniera che forse non avevo mai fumato prima, e a dormire poco, tant'è che io sono in onda stamattina, grazie a Dio, perché sebbene io mi sia svegliato molto presto, ma essendomi posto un po' l'obiettivo di riposare questo sabato, al di là delle faccende domestiche, sono riuscito a fare ancora un'oretta abbondante di sonno e mi sono finalmente svegliato fresco. E che cosa è successo? Si sono trasformate le mie energie. Si sono trasformate le mie energie e appunto ho messo su la mia bella lavatrice, ho messo a mollo la mia divisa che indosserò almeno un'altra volta quest'anno per giocare uno spareggio, per non retrocedere contro una squadra di ragazzi molto giovani, adolescenti molto forti. E cos'altro ho fatto? Beh sì, ho montato i bidoni della spazzatura dell'IKEA, una cosa che non avrebbe richiesto più di un minuto, ma che io ho messo 5 per capire come bisognava fare. Trasformazione, energia. Qualche giorno fa ho avuto una conversazione molto importante con un mio amico, e notturna, via WhatsApp, la citerò altre volte, forse l'ho già citata, e in questa conversazione sono successe tante cose. La cosa più affascinante che è successa è stata gettare una luce diversa sul passato. Cosa succede in questo passato? Io sono una persona, diciamo, dall'anima riflessiva e con tratti melanconici. Una mia compagna di scuola, per sfottermi, dice che sono un depresso. Io ormai, grazie al cielo, so che non è vero. E detto questo, quindi sono molto condizionato dal passato, vivo molto nel passato. Ma la cosa affascinante di questa esperienza è che è successo finalmente una cosa che io ho sperato accadesse per anni, cioè la possibilità di riscrivere il mio passato. Perché questo mio amico mi ha sostanzialmente detto, per farla breve, che ci sono molte persone, anche molte più di quanto io immaginassi, non parlo di frotte di persone, ma di una manciata, che già 15 anni fa, 20 anni fa, erano grandi estimatori della mia musica e lo sono rimasti tuttora. E la cosa che mi ha colpito più di tutte è stata che questa cosa mi è stata detta perché io avevo un pensiero in testa che ho condiviso con lui, e cioè il fatto che se incontrassi una persona come me, cioè un ragazzo giovane che era, che aveva lo stesso tipo di inclinazioni, lo stesso tipo di sentimenti, lo stesso tipo di stato d'animo, di situazione esistenziale che ho vissuto io 15-20 anni fa, avrei fatto di tutto per supportarlo, avrei fatto di tutto per incoraggiarlo. E la risposta è stata: guarda, tu hai avuto tutto il supporto e l'incoraggiamento, ma purtroppo per te non è mai stato abbastanza. E questa cosa io sapevo che me l'avrebbe detta, perché l'ho capito, nel senso, ho fatto tra virgolette pace con me stesso rispetto a questa cosa qui. O almeno, no, non ho fatto pace con me stesso. Sapevo che era vera, e in quel preciso momento, in quel notte, sul balcone della mia nuova fantastica casa, che adesso è anche attrezzata con una cucina finalmente, ho dovuto rassegnarmi al fatto che è proprio così. Io ho avuto tantissimo supporto, ricordo pochissime persone a cui veramente non sono piaciuto, e semplicemente non avevo gli occhi per vedere. Well, shucks, I think I need to go to therapy, but I'm tough, so I'm just gonna cry in bed for free, but enough. Like maybe I've been living in denial for a while. It sucks, my brain tells me to eat a bag of dicks, and I suck at knowing when my mind is playing tricks. Now I'm stuck. How come it didn't dawn on me before? I'm confident that I'm insecure. I'm confident that I'm insecure. I'm not deep, don't wanna know what death is all about, but I need to know that if I die, that you'll be proud of me and everything you hope that I would be, I'd be. But I'm weak, criticism knocks me to the ground when I speak. I don't like hearing words just coming out, but God, please, how come you didn't tell me this before? I'm confident that I'm secure. I'm confident that I'm insecure. I'm confident that I'm insecure. There are two games that are being played. One, which most of you are playing, which is an outside in. If I mold the outside and get good external results and good references, then that's going to change how I feel within. That does not work. It might temporarily give you a boost, but it's not sustainable, it's not permanent. And ultimately, the quote to reflect on is, wherever you go, there you are. Hey, change the outside as much as you want. It's still the same old you experiencing it. When you change this, inside out, everything changes. The approval you're after isn't out here. It's within here. Re-go-ni-a. Energy flows, shifts, and evolves. Don't resist it. Embrace change because it is the true path to your growth and evolution. Siamo online e siamo al giro di boa, sono le 11.35, questa è Rigonia, 18 maggio 2024, Radio Antidoto. Un ringraziamento a tutte le persone che sono in ascolto in questo momento, un ringraziamento anche a te, ascoltatore del futuro, a cui sempre più spesso mi rivolgo. Fa piacere comunque vedere che il sabato mattina c'è qualcuno che ha ancora il tempo di collegarsi online. Tra l'altro mi è giunta notizia che ci sarà una nuova host, una nuova presentatrice, una nuova broadcaster sulla nostra radio che ci parlerà di viaggi e restiamo in attesa di ascoltare quello che ha da raccontarci. Parlando di energie, appunto, come dice l'ultimo audio, il punto qual è? Nel momento in cui a me è successo, ritrovi determinate energie, il primo step è riuscire a trovare il flusso, cioè riuscire a creare quel movimento che ti permetta di riutilizzare le energie, reinvestirle in un circuito virtuoso. Una delle più grandi sfide della mia vita, una delle mie più grandi aspirazioni, il più delle volte frustrate, è sempre stato quello di percepire le mie energie interiori, di sentirne la forza, il vigore e anche l'esigenza di essere espresse e non riuscire mai devo trovare il verbo giusto, e non riuscire mai a fare in modo che diventassero energie trasformative. Cioè l'ideale nella mia testa era sì, io ho questa creatività, io ho questi sentimenti, ho queste emozioni, ho questa visione del mondo e soprattutto ho questo trasporto, questo senso di voler essere, questo senso di voler contribuire, ma allo stesso tempo più ci provo e meno ci riesco. Ed è molto, molto, secondo me è molto interessante quello che viene detto nell'audio precedente da questo tizio di cui non ricordo il nome, ma di cui spesso vedo i video, che è un motivatore molto buffo, con i jeans strappati, che si presenta un po' così, un po' zozzo, però ovviamente campa molto di questo suo carisma magnetico, di questa sua capacità di dire le cose dritto per dritto. E le energie, l'errore è voler investire le energie nel di fuori, laddove invece queste energie vanno investite nel di dentro, cioè la trasformazione è interiore, la trasformazione è personale e la trasformazione poi interiore emana il cambiamento fuori. Ed è la ragione per cui sono qui, nel momento in cui ho riscoperto le mie energie, il momento in cui ho sentito che c'era qualcosa che io dovevo fare, c'era qualcosa su cui mettermi in gioco, ho cercato di immaginare quali potessero essere i contesti nei quali io potevo effettivamente, ritrovare questo vigore, ritrovare questa passione, ritrovare questo interesse. E le prime due cose a cui ho pensato sono state la lettura e la radio, e quindi la radio intesa in questa maniera, la radio dove io ormai ho fatto più di 100 puntate, ne conto 100, butto un occhio veloce alla cartella perché naturalmente essendo un ossessivo numero tutto, ne conto 132 e questa è la 133esima, quindi non c'è più bisogno di presentazione, non c'è più bisogno di cercare la mia forma ideale, non c'è più bisogno di inventarsi nulla di nuovo. Adesso Rigonia è uno strumento, Rigonia è un'arma che io punto verso me stesso, cioè l'idea di essere qui questa mattina e di trasmettere, di parlare di me in questa maniera così, spero diretta, spero comprensibile, è il primo atto di trasformazione che dono a me stesso, con l'intenzione di mettere in ricircolo queste energie in modo tale da scoprire appunto dove queste energie andranno a finire quando questa mia iniziativa di Rigonia avrà ormai preso piede. Ormai ho fatto credo 6 puntate in 10 giorni e ogni qualvolta ho tempo libero cercherò di andare in onda. E anche perché andare in onda su Rigonia vuol dire che non sono stanco. Ho passato molte settimane stanco per via di cose di tutti i giorni, a partire dal trasloco, passando per lo sport, passando per il lavoro, passando per altre faccende di ogni genere. Adesso in qualche maniera da un lato devo accompagnare la mia stanchezza, e questa è una cosa di cui mi piacerebbe parlare molto, nel senso rallentare, fermarsi, guardarsi attorno, e dall'altro in qualche maniera nella mia stanchezza, come dire, delle cose quotidiane che ormai hanno poco o nulla da offrirmi, trovare invece, andare a pescare questa energia per parlare di queste cose più, se volete, non lo so, astratte, non lo so, le persone pensano che queste cose siano inutili, gran parte delle persone, per me invece è tutto, non saprei di che cos'altro parlare e tutti gli altri argomenti non mi interessano, quindi adesso ci sono, questi sono gli argomenti che piacciono a me. Passo gran parte della mia vita, delle mie giornate attorno a cose, discorsi e attività che non mi interessano più di tanto, che non muovono la mia pancia, non mettono in movimento le mie energie. Questa cosa qui, le mie energie le metto in movimento, e quindi devo continuare, devo investire sempre di più. E quindi vi toccheranno un sacco di puntate di Rigonia, mi dispiace. E questa è per il mio carissimo amico Ansco, che abbraccio. I hug you, Ansco. I love you, Ansco. Thank you for everything you're doing for the radio and also for the others, because you are a very sensitive person and I like you very much. You're a great guy. Thank you. If you analyze anything, your life, yourself, within some disturbing emotion, you're going to make your brain worse 100% of the time. You're thinking in the past, and your thoughts are arousing the brain more into that state of survival. Now, that's when we overthink. So then the person's having a spontaneous love attack. They've done it enough times, their body's going, hey, it's been about 2 hours without a little love. Well, let me just automatically do that. So now, when you feel these elevated emotions, it activates the prosocial networks in the brain. Now your energy has changed, and nothing changes until we change our energy. And when you change your energy, you change your life. Sono le 11:46 e questo è un po' è sempre il momento della puntata nella quale da un lato mi piacerebbe entro veramente nel flow e avrei ancora cose da dire e altre e invece, come dire, sarebbe il caso di cominciare a tirare le fila. Cosa succede in questo momento adesso? Chi è esattamente responsabile della mia energia? Beh, la risposta è abbastanza scontata, sono io. Mi domando quanto però cosa devo farne, mettiamola così, cosa devo farne di quei mondi, di quei contesti in cui la mia energia sembra essere rinchiusa, sembra essere ostacolata, sembra essere otturata, rallentata. Cosa fare in quei posti, in quelle connessioni dove questa energia semplicemente non ha voglia di passare, questa energia non ha voglia di girare, eppure in questi mondi, in questi contesti, in queste connessioni ci devo stare lo stesso. Cosa, come la amministro? Come faccio a, come dire, realizzare l'obiettivo principale per permettere a questa energia di continuare a fluire? Perché un tema di queste mie giornate, di queste mie settimane, è il tema della genuinità, della verità. Vedo, scopro che le persone in una certa misura non sono vere. È una scoperta un po' ingenua, non è che non lo sapessi già, però diciamo che c'è un altro livello del mostrarsi agli altri come vorremmo apparire. C'è il livello in cui in qualche maniera cerchi di vendere dei buoni sentimenti che non provi, mettiamola così. Cerchi di creare un contesto amicale e di condivisione che non ti interessa veramente, e cerchi di trovare nel gruppo la tua forza, ma il gruppo non ti appartiene. Trovi delle connessioni che ti nutrono, però non condividi l'energia che ne ricavi. Mi prendo questi silenzi perché tra le varie cose importanti davvero, quando ti rendi conto che c'è un'energia in gioco ed è un'energia necessaria ed è un'energia che quando si produce, crea effettivamente la dimensione della realtà nella quale tu hai voglia di stare, le parole diventano uno strumento potente e vengono dalla pancia. le senti che vengono dalla pancia, arrivano dalla pancia. E quindi quando devi esprimere certi sentimenti hai bisogno del tempo che queste parole in qualche maniera come bollicine si creino nella tua pancia e poi, come dire, in qualche maniera scoppino, scoppiano, vabbè, e salgano su e in qualche maniera l'aria di queste bollicine esca fuori in formato di parola, così, usiamo questa immagine carina. E in questo momento io ho delle energie che devono in qualche maniera non soltanto devono agire nel mondo, ma sono energie che agiscono nel mondo per agire su me stesso, come per esempio l'energia del dormire, che è una cosa che in questo momento sta facendo tutta la differenza. Una giornata in cui dormo, una giornata in cui non dormo, sono due giornate completamente differenti. E vedo che ho pochi sbocchi. Radio Antidoto diventerà il mio porto sicuro, diventerà il luogo dove io parlo e voi vi rompete il cazzo inevitabilmente. E perché ormai queste energie ci sono e ne conosco il valore, ne conosco la ricchezza, ne conosco il potere. E a volte le vuoi usare e a volte non le vuoi usare, ma sei più felice quando le usi. E quindi ci deve essere un modo nella vita di tutti i giorni, anche in quei contesti in cui le tue energie sostanzialmente sono sprecate, nel senso non vale la pena di investirle, ci deve essere un modo anche in quello spazio lì di trovare delle dimensioni in cui comunque tu in qualche maniera, in qualche misura tu le possa applicare. E adesso, diciamo, in questo cammino che io sto raccontando puntata dopo puntata, in questa trasformazione che ormai è avvenuta, adesso bisogna stare nel mondo, bisogna portare questa versione trasformata di me nel mondo, è la cosa che in qualche maniera sono chiamato a capire e sono chiamato a fare. Sono le 11:53 e vi propongo un breve collage e poi lascio l'onda libera ai nostri amici broadcaster. Ringrazio chi è rimasto in ascolto e ringrazio chi mi lascerà un commento, chi condividerà un pensiero su quello che ho detto, chi mi saprà dare un consiglio, chi qualunque cosa, in realtà qualunque cosa. Ho molto piacere a chiacchierare con tutti voi. Se siete qui in ascolto probabilmente avete qualcosa di interessante da dirmi, e questo direi che è tutto quello che mi interessa, e perdonate l'egoismo. 11:53, 18 maggio 2024, Rigonia, forse episodio 23, perdo sempre il conto. Una buona giornata a tutti e ci sentiamo sicuramente prestissimo. Why going into monk mode is bad life advice. A lot of self-help gurus tell you to buckle down, to not see any friends, not spend any money, and lock yourself in a room for a couple of months in order to fulfill your dream. And I think this is actually bad advice, because in order to bring any level of creativity to something, you have to be able to draw on the different parts of life, having friends, making new experiences, eating good food, consuming great art, having great sex, it doesn't matter. All of these things play into your creative spirit, your creative ability. And if you deprive yourself of these things, you're putting yourself in a corner where all you have available to you in your toolbox is your analytical mind. But when it comes to creating something from the ground up, you need your creative mind as much as you need your analytical mind. So don't listen to the hoopla on social media. If someone tells you to go into monk mode, don't believe them. Bitch, I'm really, really out for blood this time. Look. I just came back for the win. Lot of new money in my hand. Go on, tell a friend. Say success is the best revenge. Heard it was sleeping again, say it no more. This is a rude awakening, kicking the door. Back and I'm better than ever before. Don't get it mistaken, I'm ready for war. I see the odds and I'm up in the score. I catch a body, then jump in the course. Follow the core and I'm back to the morgue. Take the sheet off and I kill him some more. When I'm your done at the scene, I won't leave anything. You won't even know who was involved. Don't let me do it, cause I overdo it and do it till I cannot do it no more. All of the data's, I'm proving them wrong. Back with the classic, I know it's been long. Had it was missing me while I was gone. I smell the victory back up on top and it's where I belong. Like it ain't shit to me, we making history. Fall through the misery, weather the storm. Can't let them get to me, no weapon form shall prosper. Be bitches all over my roster. Bitch, I got options. I keep a chopper right on the dresser next to the Oscar. Applying pressure, somebody stop us. Apply pressure, somebody stop us. Running my class, go need a doctor, go need a doctor, go need a what? I just came back for the win. Lot of new money in my head. Gonna tell a friend, tell a friend. They say success is the best revenge. I just came back for the win. Revenge. So now they on my body. Made it to the top. Ain't no way that they can stop me. Nah. They gon' say I joined Illuminati. I got demons all around me. Tell me what they know about me. Huh? I just came back for the win. Lot of new money in my hand. Gonna tell a friend, tell a friend. They say success is the best revenge. I just came back for the win. Lot of new money in my hand. Gonna tell a friend, tell a friend. They say success is the best revenge. Arrivederci su Rigonia.